Vedi, è stato facile cambiare le tue idee, e sapevi che in fondo era semplice capire. Puoi mentire, ma io non ho la gioventù irrisolta di chi disdegna l'odore della pioggia, e quindi debole ritorno a casa. Senza idea di come vincere l'inquietudine. E poi è stato facile scordarsi di me. Ed in fondo era semplice amarmi e poi mentire. Ma io non ho la gioventù distratta di chi scelto la notte per compagna, e quindi debole ritorno a casa senza idea di come vincere l'incontro.